Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e bentornati al nostro appuntamento con la stampa periodica. Vediamo di che si parla in questi giorni, non solo sui periodici che abitualmente verifichiamo ogni sabato mattina, ma anche con qualche iniziativa speciale, perché volevo parlarvi un po' di rete, un po' di internet, un po' di tecnologia. Perché? Perché sfrutto l'occasione di questa pubblicazione, questo instant book che il Sole 24 Ore presenta in edicola, dedicato al fenomeno Facebook, la più grande comunità in rete e il successo dei social network. Ora, mi immagino che non tutti coloro che ascoltano sappiano esattamente che cos'è Facebook. Se posso dirvi la verità, neppure io ho le idee chiarissime in proposito. Ma è indubbiamente, e su questo non c'è veramente alcuna possibile smentita, un fenomeno di massa. Cioè è qualche cosa, è un collegamento, una possibilità di fare amicizie, di scambiarsi contatti, saperi, informazioni in rete che sta contagiando, pare, milioni e milioni di italiani, dopo aver contagiato milioni di stranieri, peraltro. Allora, per questo gli autori, gli esperti del Sole 24 Ore hanno riunito in questo volume, che è in vendita appunto con il quotidiano, il fenomeno Facebook, hanno riunito un po' tutte le informazioni, quello che c'è da sapere su questo fenomeno, che voi lo conosciate benissimo o che magari non ne sappiate granché. Vi posso solo dire che tra il 2007 e il 2008 Facebook è passato da 50 milioni di utenti attivi nel mondo, cioè persone che erano collegate a questo Facebook, a 120 milioni di utenti attivi a novembre del 2008. Quindi tra ottobre 2007 e novembre 2008 ha più che raddoppiato questi utenti. Che fanno questi 120 milioni di utenti che si collegano a internet e vanno su Facebook? Perché credo che questa sia un po' la domanda di tutti. Beh, Facebook in realtà, come spieghiamo, come viene spiegato in questo libro, è pensato per mettere in contatto le persone, vecchi e nuovi amici, compagni di classe, colleghi di lavoro, appassionati con un hobby in comune e magari tifosi della stessa squadra. Questo è l'avvertimento, uno degli avvertimenti iniziali che si trova nel capitolo Le istruzioni per l'uso. Come funziona? Beh, questo devo dire è un po' più complicato forse da spiegare. In sostanza si tratta di entrare in una comunità che è creata in internet, dando le proprie generalità, fare una specie di pagina in cui si mettono alcune informazioni su di sé e tramite questa pagina entrare in contatto con le pagine che altre persone hanno fatto. Ora, dovete sapere che tra i vari usi di Facebook però non c'è solo l'aspetto ludico, cioè uno si mette in Facebook, è in Facebook e trova così i suoi vecchi compagni di classe piuttosto che le fidanzate o i fidanzati di un tempo. In realtà se ne fa un uso sia nella politica sia nel lavoro. Come appunto spiega il volume che è in edicola in questi giorni, nella campagna presidenziale per gli Stati Uniti Barack Obama ha tratto un grande vantaggio da quello che viene definito il grande contagio digitale. Una campagna vincente grazie alla rete. Grazie alla rete, appunto, e utilizzando Facebook, Obama ha potuto sfruttare al meglio le potenzialità di internet. Gli usi di Facebook naturalmente non si limitano però all'aspetto ludico né alle questioni di contatto, per così dire, politico, perché secondo un sondaggio condotto da Nova24, che è il supplemento di tecnologia del Sole 24 Ore tra gli utenti web, si connettono per motivi di amicizia il 43% degli utenti, si connettono per divertimento un altro 42%, però c'è una quota intorno al 10% che si connette per lavoro, perché Facebook sta anche diventando una opportunità per trarre informazioni sulle persone, cioè facendo parte di questa comunità di Facebook che è chiusa, cioè bisogna presentarsi all'ingresso in qualche modo, ma in realtà, come abbiamo detto, è fatta poi da milioni e milioni di persone. Ebbene, in questo modo si possono avere informazioni sulle attività che qualcuno sta svolgendo. Infatti l'utilizzo anche da parte delle aziende per trovare persone o per sapere qualcosa sulle persone pare sia in forte crescita, come testimonia questo 10%. Facebook è nato sostanzialmente per motivi di divertimento, è vero, ma già il 10% è una percentuale significativa di utilizzi cosiddetti per lavoro. Vi segnalo, per chiudere un po' questo discorso su Facebook, che è davvero il fenomeno del momento, ne abbiamo parlato anche in qualche altra puntata degli utilizzi buoni o, come dire, più inquietanti di Facebook, vi segnalo il dizionario, naturalmente, che non poteva mancare. Le parole chiave, ci sono parole magari più note come avatar o blog, e parole invece più da iniziati che potete finalmente trovare, finalmente comprendere. Parlo per me per primo, naturalmente, perché appunto si scoprono i significati di termini come aggregatore o feed RSS e così via. Insomma, tutto quello che volevate sapere su Facebook, ripeto, che voi ne facciate parte o che invece siate solo curiosi di capire perché così tanta gente si collega a Facebook, che cos'è il fenomeno Facebook. Lo spiega questo volume in vendita con Il Sole 24 Ore in questi giorni. Parliamo ancora un pochino di tecnologia per due motivi. L'uno è una cosa piccola, se volete, ma a suo modo inquietante, che ho trovato sul venerdì di Repubblica. Hanno fatto in America un decoder che serve a decodificare il pianto dei bambini. I bambini piccoli ovviamente piangono per esprimere emozioni assolutamente diverse. E poiché pare che i genitori siano in difficoltà a interpretare correttamente i segnali emessi dal bambino con il pianto, ecco, hanno inventato in America questo decoder che sta per essere esportato in tutto il mondo. C'è un po' da chiedersi, scusate la banalità, come abbia fatto la razza umana ad arrivare fino a questo decoder, però evidentemente abbiamo potuto arrangiarci in qualche modo. Vi posso dire che i segnali che vengono riconosciuti dal decoder sono lo stress, la stanchezza, la malattia, la noia e la fame. Questi sono i segnali che vengono indicati sul venerdì di Repubblica come fondamentali. Quindi uso della tecnologia per una necessità, verrebbe da dire, assolutamente primaria. Ritorno dalla tecnologia al web, ancora con una sorta di circolarità, perché ancora sul venerdì la rubrica di Michele Serra coglie un punto dolente che avevamo segnalato, se vi ricorderete, a proposito di qualche paese straniero in cui le chat, le calunnie addirittura diffuse in rete avevano portato a esiti infausti per chi era stato oggetto poi di queste dicerie sul web. Ecco, spiega Michele Serra in una lettera, commenta un accaduto, cosa è successo, che il 25 ottobre scorso il giornale ha pubblicato un articolo di Antonio Signorini in cui si spiegava che una decina di nomi di cosiddetti VIP di sinistra, riferisce Serra, mandano i figli alle scuole private. In realtà almeno due dei nomi della lista, spiega sempre Michele Serra, vi compaiono del tutto immotivatamente. Ma quello che mi ha maggiormente colpito è scoprire che l'errore ha centuplicato i suoi effetti grazie a Internet. Numerosi blog, non saprei dire se per grillismo anticasta o per destrismo tout court, lo hanno ripreso con entusiastica foga in un tripudio di commenti beffardi e accuse roventi, mettendo all'agonia i presunti VIP. Fa davvero pensare, qui il commento devo dire è assolutamente scevro da questioni politiche, la velocità e la totale mancanza di controllo e autocontrollo con la quale le bufale galoppano in rete. Una goccia di veleno su un foglio di carta diventa in poche ore un torrente in piena. E quanto alla verità, beh, questa non fa più parte del dibattito, né su carta né sul video. Questa è la amara conclusione finale di Michele Serra sul venerdì di questa settimana. Chiudiamo la nostra rassegna tecnologica e di internet con una segnalazione da Newsweek. Newsweek ci informa in un lungo articolo intitolato Internet sta chiudendo, affidato a Jonathan Zittrain, che stanno prevalendo, dopo la fase iniziale di espansione di complessiva e totale apertura della rete a tutte le tecnologie, a tutte le informazioni, le applicazioni che invece si chiudono, cioè sono poco permeabili all'esterno. E questo pare essere lo sviluppo che dovrebbe avere maggiore fortuna presso i consumatori. perché, spiega appunto Z-Train, stanno sviluppandosi questi prodotti che sono formulati un po' come gli iPod, cioè che un po' bastano a se stessi, creano un sistema assolutamente autosufficiente e non hanno bisogno poi di andare a cercare altrove le informazioni. Peraltro, una curiosità ultima e finale sulla rete ci viene ancora da Newsweek. Christian Carlisle ci dice che sono già in vendita in Giappone dei personal computer da un dollaro, ma con il trucco, perché si paga un dollaro per il computer e poi però si pagano $60 al mese per usare la possibilità di accedere con quel computer a tutti i dati che ci possono servire. Quindi uno sviluppo abbastanza particolare, mal contati fanno $720 all'anno. Per un utilizzo che si può immaginare del computer di un paio d'anni, siamo facilmente sui $1,400, insomma, intorno, direi in questo momento, al migliaio di euro. Magazine 24. Bentornati alla rassegna stampa dei periodici in edicola. Abbiamo parlato molto di questioni tecnologiche. Vediamo una cosa vecchia, non dico vecchia come il mondo, ma quasi, che magari ci riporta un po' di più coi piedi per terra. Sto parlando di copiare a scuola. Perché parlo di copiare a scuola? Perché una divertente statistica che viene pubblicata sul magazine del Corriere della Sera ci informa che a copiare si impara da piccoli. Beh, questo forse potevamo più o meno immaginarlo, ma la cosa divertente è che nel 45% dei casi ci si riempiono le tasche di bigliettini, di aiuti, diciamo, per la matematica, che è la materia dove si fa più ampio ricorso a questi strumenti illeciti di aiuto. Poi seguono le lingue, però siamo poco sopra il 10%, e poi l'italiano appena sotto il 10%, percentuali diciamo meno rilevanti per tutte le altre materie. Il commento accanto a questa statistica dice: anche se poco può tirare fuori dai guai, l'ha confessato l'aspirante magistrato che nei giorni scorsi ha consultato un libro durante il concorso, ma copiare è un'abitudine che inizia da piccoli e aumenta crescendo. Pare che sbircino testi o dai compagni o da sé l'81% degli studenti delle superiori, il 73% degli alunni delle inferiori. L'indagine è stata fatta dalla facoltà di sociologia dell'Università di Urbino. Lo fa più spesso il 23,5% degli alunni maggiori. E tra l'altro il 57% ci informa non riesce a farla franca, viene beccato il 21,6%. Direi uno su cinque, quasi il rischio vale, ma queste sono magari insegnamenti che non si dovrebbero dare, però insomma finché l'illecito è quello di copiare, per carità. Mentre di un illecito più preoccupante ci informa invece il Nouvel Observateur, perché in Francia si sta discutendo di una riforma che potrebbe prevedere il carcere già dai 12 anni. Perché questa improvvisa abbassamento, questa durezza nei confronti dei minorenni? Lo spiegano alcuni dati riportati dal Nouvel Observateur. Tra il 1990 e il 2000 la delinquenza giovanile, cioè minorenni che sono stati arrestati o bloccati insomma in qualche modo dalla polizia in migliaia, sono aumentati vertiginosamente. Da 80.000 siamo passati nel 1990 siamo passati a 180.000 calcolati nel 2000, e la percentuale poi è andata ancora salendo, perché ci informa sempre il Nouvel Observateur, nel 2006 i reati hanno riguardato il 3,4% della popolazione giovanile, il furto rappresenta il 43% di questi reati, il disturbo alla quiete pubblica il 34%, gli atti di violenza il 22%. Davanti a questa crescita così imponente degli atti di violenza commessi da appunto ragazzini molto piccoli, la Francia sta pensando di intervenire, addirittura prevedendo il carcere già dai 12 anni. Ci sono anche questa settimana molte occasioni per discutere della crisi sulla stampa periodica, anzi diciamo che c'è anche un po' di contrasto tra settori che dicono di sentire particolarmente la crisi e altri che dicono invece di sentirla meno. Io vi segnalo un paio di cose e gli spunti sarebbero in realtà molti di più. L'Economist dedica la sua copertina a una domanda direi di tutto rispetto: dove se ne sono andati tutti i nostri risparmi? E ci informa appunto l'editoriale dell'Economist che nell'ultimo decennio è di fatto passato invano per i risparmiatori americani ed europei, perché dopo due boom, due fasi di crescita e due invece crisi, praticamente i mercati azionari hanno guadagnato più o meno nulla e quindi ci ritroviamo dopo 10 anni di investimenti nei mercati azionari ad avere più o meno lo stesso valore di quello che avevamo immesso 10 anni fa. Questo è l'avvertimento dell'Economist, la segnalazione dell'Economist che appunto si chiede dove sono andati i nostri risparmi, però ci sono anche dei motivi invece di maggiore ottimismo, li ricaviamo dall'Espresso. L'Espresso ci informa da una parte che nei prossimi mesi la vendita dei beni di lusso calerà, ma aumenterà quella dei libri cosiddetti di spessore, cioè libri di forte impatto culturale, e addirittura in un piccolo box della pagina ci informa che sono meglio i beni culturali che gli hedge fund, cioè i fondi ad alto rischio che sono stati fortemente colpiti dalla crisi. In un'altra pagina, in un'altra inchiesta, viene invece segnalato come ci siano dei settori che non prevedono di abbassare i prezzi, anzi di alzarli per andare ad aggredire le categorie dei cosiddetti super ricchi. Quindi il lusso non dovrebbe risentire dell'austerità, ma invece avere un incremento anche nei mesi a venire. Peraltro, secondo la Confcommercio, i consumi delle famiglie sono previsti in diminuzione per il triennio 2008-2009-2010, cioè chiuderanno praticamente sempre con un segno negativo in tutti i settori. Questo segnala sempre l'Espresso: dagli alimentari al vestiario solo stabile restano l'abitazione e i beni durevoli, per motivi anche comprensibili. Trasporti e il tempo libero pure segnerebbero delle percentuali negative, percentuali che vanno da un meno 2% previsto per il tempo libero nel 2010 a più modesti scostamenti dello 0,2% in meno per gli alimentari di qui a appunto al 2010. Allora, di fronte a questi segnali un po' contrastanti, la crisi c'è, la crisi non c'è, qualche bene aumenta, qualche bene diminuisce, abbiamo più o meno propensione ai consumi, e il Sole 24 Ore dedica il suo mensile 24, che è in edicola proprio in questi giorni, a una parola significativa: l'attesa. Quindi aspettiamo e vedremo che cosa succede. L'attesa è il tema dominante del 24 che trovate in edicola. Vi segnalo tra le varie questioni di attesa il meccanismo dell'attesa che si crea nel commercio. Ad esempio, come ricorda un articolo appunto su 24 firmato da Roselina Salemi, dice: l'estate scorsa, l'11 luglio, c'è stata la lunga notte dell'iPhone con apertura straordinaria dei negozi, relativa coda per accaparrarsi subito i pochi pezzi a disposizione in Italia. Si chiede: era davvero impossibile farne a meno? Forse no, ma il valore della notorietà e il risparmio pubblicitario per Apple è stato calcolato tra i 5 e i 6 miliardi di dollari. Steve Jobs, fuori da ogni schema, ha osato annunciare un prodotto 6 mesi prima della sua uscita e ha dato a tutti una lezione di marketing. Quindi creare l'attesa serve poi a dare anche la possibilità, a generare la possibilità di ulteriori, maggiori vendite rispetto a quello che si potrebbe ottenere, pare, con una campagna pubblicitaria mirata. L'attesa viene declinata un po' in tutte le sue tutti i suoi possibili significati. Su questo numero di 24 non poteva mancare l'attesa nel senso di castità. Si riferisce in un articolo di Livia Manera che come reazione alla spinta permissiva alle università americane già negli anni 90 comparvero i primi club di castità prematrimoniale. Ora ad Harvard c'è un'associazione, si chiama True Love Revolution, che rilancia l'invito. L'attesa è tutto, afferma la sua presidente 19enne, lo racconta appunto il numero di 24 in edicola. Bene, il tempo a nostra disposizione è praticamente esaurito. Vi ricordo che sempre con il Sole 24 Ore trovate l'impresa Rivista Italiana di Management, in vendita il numero di dicembre a 4,90 euro. Io ringrazio Giacomo Spunta per l'assistenza tecnica, Daniele Casagrande per l'aiuto nel confezionare questo programma e vi do appuntamento a sabato prossimo.